Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Doveva saltare in aria in autostrada lui e la scorta, come non si può pensare subito all'attentato di Capaci. Oggi per esempio c'è un giornale che lo fa, l'Unità mette in prima pagina proprio la foto dell'attentato a Falcone col titolo «Volevano rifarlo con Saviano». L'obiettivo era proprio Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, ormai da alcuni anni sotto scorta. La sua colpa, lo sapete, la colpa ovviamente tra virgolette, aver scritto un libro che è stato tradotto in 42 paesi e che ha acceso riflettori che non si spegneranno mai più a questo punto sulla mafia più potente ma finora più sconosciuta d'Italia, i Casalesi, chiamati così perché originari di Casal di Principe. La procura ovviamente sta valutando le dichiarazioni di uno dei pentiti storici, Carmine Schiavone, che ha fatto queste dichiarazioni, ha rivelato appunto il piano da compiere entro l'anno, ma ulteriormente si sono accesi i riflettori sulla vita di Roberto Saviano e non solo, su chi vive sotto scorta perché con il proprio lavoro denuncia quotidianamente, su chi rischia la propria vita per informare o per fare il proprio lavoro di magistrato, per fare il proprio lavoro di politico, perché insomma ha deciso di non voltare la faccia dall'altra parte come molti fanno. Di questo oggi vogliamo parlare, non solo della vita di Roberto Saviano, non solo di Saviano. Voglio salutare tre ospiti che sono con noi, a cominciare da Raffaello Maggi. Buongiorno, buongiorno Maggi. Buongiorno. Raffaello Maggi è giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è il giudice a latere che ha scritto la sentenza Spartacus. Il processo Spartacus è il più grande processo contro la mafia dei Casalesi. Ovviamente vive sotto scorta. Voglio salutare Lorenzo Diana, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. È stato senatore da 13 anni, è sotto scorta perché nel mirino dei Casalesi, è di San Cipriano d'Aversa, oggi è consigliere della Fondazione Antonino Caponnetto e in quel processo Spartacus si rivelarono insomma i progetti per un tentativo di portare un attentato alla sua vita, a Lorenzo Diana. Così come voglio salutare Lirio Abbate, un collega da Palermo. Buongiorno Lirio. Buongiorno. Ben ritrovato, giornalista dell'ANSA Palermo, da 2 anni sotto scorta dopo che ha scritto un libro rivelatore, I complici, tutti gli uomini di Bernardo Provenzano da Corleone al Parlamento, che ha aperto e squarciato molti veli sulle coperture di Bernardo Provenzano negli ultimi 40 anni. Quel libro a qualcuno non è piaciuto. Alle 9:11 le minacce a Roberto Saviano, che tra l'altro leggeremo alcuni stralci oggi a Giuseppe D'Avanzo su Repubblica, racconta tante cose della sua vita attuale, il coraggio di denunciare con il proprio lavoro e per questo vivere sotto scorta. Raffaello Maggi, come detto, è giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, estensore della sentenza Spartacus contro i Casalesi. Tra l'altro, giudice Maggi, proprio Carmine Schiavone, le cui rivelazioni sono ora al vaglio per questo progetto nei confronti di Roberto Saviano, è stato uno dei collaboratori di giustizia su cui si è fondato proprio il processo Spartacus, quindi lei l'ha conosciuto da vicino nelle aule di tribunale. Le chiedo una valutazione sull'eventuale attendibilità del personaggio innanzitutto. Guardi, saluto anche gli altri ospiti ovviamente, per quanto mi riguarda io sono rimasto un po' perplesso da dichiarazioni che vengono rese da un soggetto che 13 anni fa, voglio dire, ha iniziato, anzi forse 15 anni fa, un percorso di collaborazione con la giustizia e che dovrebbe essere sterile, diciamo, dall'ambiente di provenienza. Quindi delle due l'una, insomma, così non è e questo soggetto raccoglie ancora, diciamo, notizie da un ambiente da cui dovrebbe essere fuori, oppure le voci, diciamo, di una situazione di questo tipo sono talmente insistenti che arrivano, diciamo, anche in località distanti e protette. Perché ricordiamo, Carmine Schiavone ovviamente ha un'altra identità, vive in una località protetta e segreta, certo. come si conviene in questi casi con chi collabora, con chi è una fonte preziosa poi oggi di informazione. Certo, io le dico insomma, il contributo di questo soggetto è stato un contributo importante che si è unito ovviamente a tanti altri contributi che si sono verificati dopo e che ha consentito di aprire, diciamo, tra il 93 e il 95 una finestra sulle attività di questa organizzazione. Ora mi domando, voglio dire, per certi versi, come sia possibile che a distanza di tanto tempo possa essere in possesso di notizie su quello che dovrebbe accadere adesso. E credo che la procura di Napoli oggi voglia proprio interrogarlo proprio su queste dichiarazioni. Le chiedo, procuratore, è vero che c'è un tentativo di alzare il livello dello scontro, quella che il ministro Maroni ha chiamato guerra civile o rischio di guerra civile in atto? Guardi, purtroppo, diciamo, i fatti parlano da soli, nel senso che negli ultimi mesi si sono verificati proprio in concomitanza con la chiusura di una parte del processo Spartacus in sede di appello, si sono verificati una serie di episodi molto tristi ed inquietanti, tra cui la strage di Castelvolturno, insomma, che chiaramente è stato l'episodio più eclatante, ma ce ne sono stati anche degli altri. Quindi è evidente che c'è una fibrillazione, diciamo, sul territorio, ci sono dei tentativi, diciamo, insomma, di ristabilire un'egemonia che poteva sembrare messa in crisi, insomma, da un po' di risveglio civile e dalle decisioni giudiziarie. Questo purtroppo è un dato di fatto a cui stiamo assistendo. D'altra parte, la Procura di Napoli si è mossa in maniera molto attiva, insomma, in questi ultimi mesi e ha inciso, diciamo, parecchio. La speranza è che, ovviamente, voglio dire, fermo restando che non bisogna mai sottovalutare, non bisogna mai abbassare la guardia, la speranza è che questi soggetti capiscano che una strategia della tensione, insomma, così aggressiva non porta da nessuna parte, insomma, voglio dire. Ovviamente la risposta non può essere semplice, semplicistica, però glielo chiedo lo stesso: vale la pena rischiare la propria vita per fare il proprio lavoro, in questo caso come lei da giudice? Guardi, purtroppo, diciamo, chi vive in questi territori rischia la vita a volte anche senza saperlo, nel senso che le organizzazioni criminali hanno imbottito, per esempio, diciamo, di veleni diciamo, i terreni su cui poi vengono coltivati a volte anche, diciamo così, prodotti alimentari. Quindi è una regione dove i livelli di rischio sono molto alti. Chi fa il proprio lavoro, diciamo, in maniera coscienziosa e onesta, secondo me non deve mai temere nulla. E almeno, voglio dire, sa, è consapevole in qualche modo dei rischi che corre. Io mi chiedo quali siano i livelli di rischio, purtroppo, di chi abita in queste zone e certe cose non le sa. 800 24 00 24. Oggi Roberto Saviano parla in due pagine, l'apertura di Repubblica, Giuseppe D'Avanzo. Andrò via dall'Italia, almeno per un periodo, poi si vedrà. Penso di aver diritto a una pausa. Ho pensato in questo tempo che cedere alla tentazione di indietreggiare non fosse una gran buona idea, non fosse soprattutto intelligente. Ho creduto che fosse assai stupido rinunciare a se stessi, lasciarsi piegare da uomini di niente, gente che disprezzi per quel che pensa, per come agisce, per come vive, per quel che è nella più intima delle fibre. Ma in questo momento non vedo alcuna ragione per ostinarmi a vivere in questo modo, come prigioniero di me stesso, del mio libro, del mio successo. Fanculo il successo, voglio una vita, ecco, voglio una casa. Voglio innamorarmi, bere una birra in pubblico, andare in libreria, scegliermi un libro leggendo la quarta di copertina. Voglio passeggiare, prendere il sole, camminare sotto la pioggia, incontrare senza paura e senza spaventarla mia madre. Voglio avere intorno i miei amici, poter ridere, non dover parlare di me, sempre di me, come se fossi un malato terminale, loro fossero alle prese con una vita noiosa eppure inevitabile. Cazzo, ho soltanto 28 anni. Lorenzo Diana, Roberto Saviano dice: vado all'estero per un po'. Non è facile giudicare, lei è sotto scorta da 13 anni, lei vive in quel territorio, a San Cipriano d'Aversa, conosce quei territori, ne ha dato una descrizione che poi tra poco vorrò leggere in una straordinaria intervista, secondo me, che lei rilasciò nell'allora 99, sono cambiati tanti anni. Che ne pensa di Roberto Saviano che dice: devo andarmene perché a questo punto rivoglio qualche spazio della mia vita? Ma lo spazio della vita e non piegare la testa, è difficile accettare di vedersi negare le libertà. Il dottor Maggi poco fa lo diceva, non si sceglie di correre rischi, ci si trova nel momento momento in cui non si vuole rinunciare a libertà, a diritti fondamentali della persona umana. Per questo io penso che Saviano ha fatto benissimo a scrivere il libro, del resto sono convinto che il primo ad avere la profonda convinzione di aver fatto una cosa giusta e buona sia Roberto. Ha fatto bene ed è ovvio che quel libro col suo successo ha avuto il merito di accendere definitivamente riflettori nazionali e internazionali su Casertano, su Casal di Principe, e questo gli costa caro. Questa è la stessa colpa, sempre tra virgolette, che imputano, che hanno imputato a lei. Voglio ricordare che appunto c'è stato un tentativo di un attentato o anche di una gambizzazione nei suoi confronti, un tentativo nel senso un progetto. Io ho letto anche dall'ordinanza della Procura Antimafia di Napoli di 10 giorni fa di questi piani del clan dei Casalesi, perché mi riterebbero responsabile di arresti, di sequestri di beni. In realtà la responsabilità è la stessa che portano tante persone, Saviano, diversi di noi. La responsabilità ai loro occhi è di aver acceso i riflettori su questi territori, su una criminalità che agiva in modo impunito da oltre un quarto di secolo. Ecco, nella penombra dell'attenzione mediatica, dell'attenzione politica e istituzionale, può accadere, come è accaduto qui, che un clan da una banda tutto sommato di delinquenti in pochi decenni si è divenuto un'organizzazione potentissima, molto ricca, a cui sono stati sequestrati beni per un valore superiore a 1 miliardo di euro. Diana, le condanne a morte della Camorra hanno una scadenza? Dice un loro pentito, certo Dario De Simone, che si è autoaccusato di quasi un centinaio di delitti, che le sentenze del clan vengono rinviate ma non annullate. Pendono sempre. Dicono. Lei, nella descrizione appunto a cui poc'anzi facevo riferimento, in un'intervista al Mattino al 99, voglio leggergliela perché sono passati nel frattempo 9 anni e voglio capire se è cambiato qualcosa, al giornalista Enzo Ciaccio che le chiedeva: ma insomma, che razza di paese è questo, nel senso Casal di Principe? E lei rispose: è un paese in libertà limitata, vigilata, condizionata, una riserva indiana dove se vai a bere un caffè fai bene a non scegliere il bar sbagliato, quello dove i guaglioni ti aspettano per farti lo sgambetto, per darti una spinta. E perché spingono? Sperano in una tua istintiva reazione e bisogna stare attenti. Se uno reagisce, sbaglia. È ancora così Casal di Principe? E in buona parte così, tranne per diciamo una raffinatezza dei metodi di avversione. Lo sguardo di alcuni quando entri in qualche bar si avverte subito di essere uno sguardo ostile. Siamo di fronte ad un degrado ed un imbarbarimento dei rapporti civili che mettono a dura prova la parte sana della popolazione, che sicuramente è largamente maggioritaria, però c'è una minoranza che domina, ed è ovvio che si domina perché ha complicità, collusione, radici, relazioni di potere, altrimenti non ce la farebbero, sarebbero subito sconfitti. Riguardo a queste relazioni di potere, io farei un salto a Palermo, da Lirio Abbate, che queste relazioni di potere, come detto, le ha scritte, le ha denunciate con tanto di nomi e cognomi, insieme a Peter Gomez, nel libro I Complici, quel libro che non è piaciuto appunto a qualcuno. Quando uscì il libro arrivò un'informativa alla polizia, sostanzialmente, in cui si dissero nelle intercettazioni, si parlava di testuale fare una sorpresa a quel rompicoglioni che è appunto Lirio Abbate. Lirio, Saviano spesso denuncia l'isolamento che gli è stato creato attorno a lui dopo questo straordinario successo, dopo questo libro, dopo questi riflettori che lui ha acceso sulla Camorra dei Casalesi. È lo stesso isolamento che in qualche modo tu percepisci? Beh, io intanto non mi sento Saviano, per cui diciamo, dobbiamo cominciare a fare delle debite differenze, non per disprezzo, ma perché comunque non sono Saviano, la mia popolarità non è quella di Saviano. L'isolamento è proporzionale alla popolarità. Per cui c'è chi in qualche modo si è allontanato, si è voluto allontanare, e chi invece fra anche i colleghi ha voluto iniziare una campagna di veleni, invece altri hanno iniziato a essere più vicini. Si crea in questi casi sempre una sorta di separazione fra chi sta con te e chi invece non sta con te, si schiera dall'altra parte. Il fatto che tu hai fatto un'uscita antimafiosa, anticamorra, dovrebbe portare un po' tutti a stare dalla parte dell'anticamorra o dell'antimafia. Invece si creano delle gelosie e lì si creano degli isolamenti, e l'isolamento poi in qualche modo ti porta ad allontanarti dalle cose reali, così come è successo a me in passato. E quando sono tornato a Palermo, sono tornato un po' a riprendere fiato, loro invece si sono fatti sotto e hanno piazzato una bomba sotto la mia macchina. Per fortuna la scorta, la bonifica, riuscì in tempo a individuare questo ordigno e a farlo disinnescare. Tu infatti sei andato via per un certo periodo, certo tu ovviamente non sei Saviano, però ti chiedo di commentare anche te, non so se hai letto già Repubblica oggi la lunga sì. Intervista, voglio dire, tu stesso a Repubblica dicesti un anno fa circa, io invece decido di non andarmene per onore, non per quel mostruoso, folle, leggo sempre da Repubblica, sì. Mostruoso, folle, ridicolo onore di cui si riempiono la bocca mafiosi deboli coi forti e forti coi più deboli, ma per quell'onore che mi chiede di avere di rispetto di me stesso, che mi impedisce di inchinarmi alla forza e alla paura. Ecco, è proprio per quell'onore lì io resto ancora a Palermo, mi sposto, faccio l'inviato dell'ANSA, mi sposto soltanto per quei periodi, ma ritorno a Palermo, ritorno in un quartiere dove vivo da 2 anni e che in qualche modo mi sono costretti a tenermici, un quartiere popolare dove comunque non tutti sono dalla parte della legalità, però piano piano facciamo opera di convinzione, faccio capire loro che è meglio la legalità che l'illegalità. Però una cosa, leggendo anche quello che scrive oggi Roberto, ma quello che scrivevano ieri i giornali, ma quello che leggo ogni giorno sul mattino, è soprattutto una cosa, e mi viene in mente Rosaria Capacchione, ma mi viene in mente ogni giorno Rosaria Capacchione, che è una cronista del mattino. Eh sì, l'abbiamo avuta ospite una ventina di giorni fa. Sì, sì, ma è la cronista che ha mantenuto sempre viva l'attenzione sul clan di Casalesi. È una cronista, adesso dico una cosa molto così, una cronista che cammina a fianco con la morte. Lei sì che è veramente una persona a rischio, l'ho sempre stata, e che Casalesi conoscono, la conoscono bene, perché lei da 20 anni che scrive di queste storie, e forse anche sul lavoro che ha fatto Rosaria, Roberto è riuscito a scrivere quel libro lì. Ma non solo, credo, diciamo, è dall'88 Rosaria Capacchione che non ama parlare di questo suo aspetto. Lei dice sempre: no, io sono una cronista e mi piace raccontare quello che faccio. Esatto, voglio ricordare però che riservata, lei quando lo fa lo scrive sul proprio scrive giornale, quello che vedo, e quello che vede. 3 giorni fa, tra l'altro, e questa è cronaca, qualcuno è andato e si è intrufolato in casa sua, insomma, è il segnale, come dire, attenzione, sappiamo dove sei e possiamo noi comandare in qualche modo. Il segnale inquietante, almeno io lo leggo così. Vorrei per un attimo tornare da Raffaello Maggi, che tra l'altro ci deve lasciare. Dottor Maggi, le voglio sottoporre un sms che è arrivato al 349-238-6666 di un ascoltatore che ci dice: abbiate il coraggio di dirlo, Saviano sapeva quando ha scritto quel libro a cosa andava incontro. Il successo è andato certo ogni oltre aspettativa, ma ora paga tutto con una paura che nessuna protezione o spostamento potrà togliergli, ma insomma così è la vita, giusto o sbagliato che sia, è così. Lei che risponderebbe a questo ascoltatore? Sicuramente in parte questo è vero, cioè nel senso che il merito, lo diceva anche Lirio Abate prima, il merito di Saviano è stato quello di tradurre, diciamo, in narrativa una serie di inchieste giudiziarie che altrimenti, al di là della voce di Rosaria Capacchione, che le seguiva, diciamo, da tanti anni, sarebbero rimaste, come devo dire, sconosciute ai più. questo grosso merito ovviamente diciamo, si è tradotto purtroppo per il tipo diciamo, di situazione che noi viviamo in un grosso rischio. Io credo che questo debba sicuramente far riflettere tutti da un punto di vista diciamo, di coscienza diciamo, civile collettiva, insomma questo è assolutamente vero. D'altra parte se non c'è una reazione di chi abita in queste terre, in queste zone e che deve avere appunto il coraggio della denuncia e la fiducia diciamo, nel fatto che qualcosa possa cambiare. Ma quanti sono, dottor Maggi? Sono poche decine? Ma io mi stupisco quando vedevo i notiziari, i telegiornali, insomma, le vedrà anche lei, l'omertà, la gente che c'era un omicidio a 50 metri e diceva non ho visto niente. Purtroppo qui si affrontano temi che vanno diciamo, nella storia, anche nella sociologia, cioè bisogna interrogarsi sul fatto che le istituzioni non vengono viste come un soggetto idoneo a soddisfare i bisogni primari della collettività, mentre invece a volte purtroppo diciamo, le organizzazioni criminali hanno creato una rete di rapporti economici anche sul territorio che li fa vedere agli occhi diciamo, della gente, insomma, di un certo tipo diciamo, di popolazione, come i soggetti idonei a risolvere il problema del lavoro, il problema diciamo, tra virgolette, diciamo, della sicurezza, visto ovviamente in un'ottica del tutto distorta. E questo è il terreno su cui diciamo, le sentenze non bastano, le operazioni diciamo, di polizia non bastano, ci vuole voglio dire, una rinascita culturale e sociale e anche una presenza delle istituzioni che sia identificabile come un soggetto idoneo a far crescere diciamo, in senso democratico, in senso diciamo, di opportunità di lavoro, una popolazione, una comunità. Io, la ringrazio per essere stato con noi, Raffaello Maggi, giudice a Santa Maria Capua Vetere, estensore della sentenza Spartacus, quella che è già in appello, il più grande processo contro la mafia dei casalesi. Parliamo alla luce delle notizie che sarebbero trapelate, che sono trapelate su un possibile attentato a Roberto Saviano. Parliamo di chi vive denunciando quotidianamente con il proprio lavoro, con la propria opera e per questo insomma, vive in protezione, vive sotto scorta. Diversi ascoltatori, l'800 24 0024, Roberto da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io vorrei fare un elogio alla normalità, in questo mondo in cui tutti bisogna essere protagonisti, bisogna fare tante cose. Io quando facevo il ciclista ho corso con un campione del mondo, poi lui è diventato campione del mondo, io no, ma non per questo, cioè elogio lui, ma io mi sono ritirato perché mi chiedevano di cambiarmi il sangue, di drogarmi. Poi frequento la montagna, ma non ho bisogno di andare a 8.000 metri, io le guardo le montagne, vado a sciare, faccio roccia, ma non faccio quelle cose lì esaltanti da 8.000. Quindi? Conosco situazioni varie, per cui so che quando c'era la banda di Maniero della Riviera del Brenta avevo amici che sapevano dove si nascondeva, le Brigate Rosse, la Sacra Corona Unita. Voglio dire, ma uno deve decidere se deve fare l'eroe o deve fare la persona normale. Non è che non bisogna denunciare, bisogna cambiare gli usi e i costumi, ma della massa, della gente. Cioè mi faccia capire con una domanda brutale, secondo lei Saviano o anche Lirio Abbate che ha scritto un libro ha sbagliato? Sbaglia? Cioè fa l'eroe inutilmente? No, nel momento in cui ti scrivi il libro, certamente Mauro Corona quando scrive un libro della montagna sa che qualcuno lo può criticare perché magari scrive delle inesattezze. Sì, qui però c'è c'è la vita di mezzo qui, Roberto. Ma ho capito che c'è la vita, ma lui se pensava veramente di scrivere qualcosa sulla camorra e non aver problemi? Cioè tu vai a scalare l'Everest e poi ti vengo a prendere con l'elicottero e devo pagare ed è ora di smetterla? Cioè tu lo sai prima. Vabbè, devi diciamo parlare con l'editore, no, ma lei parlare con il giudice. Io quando devo fare una rivelazione vado dalla polizia, vado dal giudice. Roberto, lei ha fatto un intervento chiaro, insomma il paragone lo posso capire, insomma il punto da cui lei l'ha presa, però poi sono veramente piani diversi, lasciamo stare la montagna e l'Everest, ma ho capito il senso di dove voleva arrivare partendo da lì. Pone questa problematica, insomma, ma non lo sapeva mica che scrivendo queste cose incorreva in questo. È la tematica, insomma, che prima ci ha ricordato anche un ascoltatore con l'SMS, ma una tematica interessante. Tra poco chiederò a Lorenzo Diana e Liri Abbate su questo. Marco dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Milan. Dica. E ai suoi ospiti. Io volevo prima di tutto esprimere la mia gratitudine totale, così come la stima totale nei confronti e di Saviano e di Abbate e di tutti coloro che rischiano per tutti alla fine, come hanno fatto Falcone e Borsellino, e pur sapendo a cosa andavano incontro, altro che paragoni con la montagna. E c'è una cosa che mi dà fastidio però, notare come ci sia differenza tra l'omertà del sud, per esempio, e l'omertà del nord, nel senso che da qualche anno io ho la netta sensazione che, come ha denunciato Saviano, anche al nord, io sono in Brianza, si gioca una fetta grossa dei loschi affari, tant'è vero che è stata scoperta di recente una discarica abusiva nel comune di Desio, ma non ne ho sentito parlare nei media, quelli grandi. Sì, certo, la mafia non è, si dice i casalesi, ma non si può pensare, ma questo anche prima del libro di Saviano, però il libro di Saviano ha avuto il merito di avere appunto accendere questi riflettori mondiali, ma non si può pensare che i casalesi operino nel territorio dei casalesi, insomma, ma operano in tutta Italia e anche all'estero purtroppo. Marco, la ringrazio. Lirio Abbate, vuoi rispondere all'ascoltatore di prima, non Marco, quello di prima che diceva, ma in fondo insomma si sa se uno scrive certe cose, poi cosa pensa di andare incontro? Beh, se tutti quanti dovessimo fare questa riflessione, per chi vive al sud, allora la mafia l'avrebbe, o la camorra l'avrebbe vinta da un pezzo. Il problema è che c'è gente qui che ha una certa dignità a non piegarsi alle mafie, ma c'è anche una certa paura, e la paura ti viene se ci vivi ogni giorno. Vedete, è difficile, girando per l'Italia mi viene molto difficile trasportare il terrore e la paura che i commercianti e gli imprenditori hanno, imprenditori e commercianti siciliani o calabresi o campani, che hanno addosso ogni giorno, quando si vedono presentare alla porta ogni mese gli uomini del disonore, questi criminali che gli chiedono di pagare il pizzo, gli chiedono di versare somme di denaro nelle casse delle mafie, e se non lo fanno ti bruciano l'attività, te la bruciano sul serio, ti mandano in fumo anni di risparmio, di sacrifici che hai fatto. Ecco, questa cosa al nord è difficile spiegarla, perché non esiste, cioè, o almeno questo tipo di attività criminale non esiste. Qui esiste, ed è quella più palpabile, quella che la gente comune riesce a toccare meglio, quella, cioè, che la gente comune vede in faccia il mafioso, vede in faccia il criminale, ti mette addosso una paura terribile, 3.000 notte, non ci dormi. E questa cosa al nord è difficile farla capire, però è difficile far capire pure che c'è gente che ha voglia di ribellarsi a questa supremazia, e la voglia di ribellarsi è quella di scrivere, è quella di denunciare, è quella di fare un'attività sociale, perché soltanto in questo modo si potrà cambiare vita, si potranno cambiare costumi. Intanto, andare avanti fino adesso come è stata la magistratura è stato un errore, perché la magistratura può fare soltanto dei piccoli passi, può fare delle cose che rientrano nelle leggi. Tu hai detto si sa benissimo chi frequenta i mafiosi, chi e se io, se, cioè nel senso, se tu hai detto in un'intervista, se io lo so ho il dovere di scriverlo, non devo aspettare la magistratura, è una notizia. Questo capita in tutti i comuni, in tutte le città del sud, perché viviamo il territorio e conosciamo bene il territorio, e quando ti accorgi che per le campagne elettorali c'è quel capo mafia che gira a braccetto con il politico, beh, non hai le prove per portarlo sotto processo, ma hai la prova morale che quello lì non lo devi votare. L'esempio più pratico e breve, guardate, nel meridione, non so se accade anche al nord, ma nel meridione, se ti rubano il motorino, ti rubano la macchina, ti entrano in casa per un furto, per il 60% dei casi, anche il 70%, dal ragazzino da 14enne fino al 60enne, al professionista, la prima cosa che fanno non è quella di chiamare il 113 o il 112, ma sanno e vanno a bussare a casa della persona che in quel territorio comanda e controlla la zona, e gli chiedono e denunciano a lui che gli hanno rubato la macchina o il motorino, gli sono entrati in casa, e quel signore gli fa recuperare il mezzo dietro una cauzione. Allora, se noi a quel punto sappiamo chi controlla la zona e quel signore è capace di farti recuperare il mezzo, quello che ti è stato tolto dietro cauzione, e allora abbiamo capito tutto, e allora sappiamo benissimo chi è che comanda. Io voglio, ma sei stato molto molto chiaro con questo tuo esempio. Voglio salutare, tra l'altro ci ha raggiunto, tra un attimo sono da lui, Arcangelo Badolati, che è capo servizio della Gazzetta del Sud di Cosenza. Ciao Arcangelo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Prima di andare da te volevo tornare per un attimo da Lorenzo Diana. Diana, lo so, non è facile spiegare 13 anni sotto scorta, ma ce lo spieghi con atteggiamenti pratici. Lei può andare tranquillamente a San Cipriano d'Aversa in giro per la strada a bere un caffè, entrare in un bar, e se sì, la gente come la guarda? Racconto quanto mi è capitato appena domenica scorsa. Vado dai miei genitori che abitano tuttora a San Cipriano, e beh, appena arrivato i ragazzi della scorta, appena l'auto varca il cortile dei miei genitori, beh, immediatamente la prima reazione loro è chiudere il portone di ferro completamente. Per i miei genitori è come vedersi chiudere lo spazio in cui vivono. Ecco, immagini già qual è il sentimento dei ragazzi della scorta in una fase in cui si avverte una strategia di terrore. Certo che vado a San Cipriano ed è ovvio che non hai più la libertà di movimento di una volta, sono 13 anni che praticamente non vado più a piedi, mentre prima mi capitava di attraversare il corso principale, di fare quattro passi, di avere tante persone che si fermassero a salutare, a parlare, oggi capita molto molto meno. Perché lei non può camminare, ma se lo fa la gente come generalmente come reagisce? Si allontana o la avvicina? C'è una parte che si avvicina a salutare, a parlare, c'è un'altra parte che in strada non ha da far vedere di avvicinarsi a chi contrasta la camorra. E questo capita soprattutto in momenti più brutti, più difficili, come quello d'oggi, perché può essere addebitato loro di avvicinare e sostenere una persona che contrasta la camorra. Io vorrei dirle questo anche in risposta a quanto era stato già detto prima, sì, che all'omertà, la mancanza di reazione civile nel sud. Anche a San Cipriano, a Casal di Principe, nella metà degli anni 90 c'è stata una forte reazione civile, grandi manifestazioni, marce anticamorra, c'era stato un movimento intorno alle parrocchie che espresso la figura di Don Peppe Diana ammazzato dalla camorra, il parroco ammazzato, certo, quasi mentre si accingeva ad andare sul proprio altare per la messa. E in quella fase i cittadini di questi territori fecero vincere coloro che si opponevano alla camorra. Oggi? Poi, perché allora si vide che lo Stato faceva sul serio. Nel 95 ci fu la prima operazione Spartacus che portò 150 camorristi dentro. Oggi la popolazione è convinta che lo Stato e la politica non facciano ancora sul serio, su questo, hanno lasciato correre troppe cose. Su questo mi lasci con questa cosa, lo Stato. L'ultima parte di Viva Voce, Mariangela da Bologna, buongiorno. Buongiorno, io la ringrazio i suoi ospiti e soprattutto Saviano per il loro impegno. Mi dispiace di aver sentito il precedente ascoltatore perché io non ho mai chiamato, ma penso che sia un dovere e quello di portare solidarietà, perché chi denuncia non deve essere lasciato solo. Saviano potrebbe essere mio fratello perché è un mio coetaneo e a differenza di tanti miei coetanei ha fatto quello che era giusto e doveva fare. Grazie Maria Angela, perché do spazio così anche a Elisa, poi vado ad Arcangelo Badolatti. Siamo una radio libera, è aperti ai microfoni, ognuno dice la sua, io sottoscrivo le sue di parola ovviamente. Elisa da Bologna, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Anch'io volevo intervenire appunto sulla questione di Saviano e volevo dire che mi sembra quantomeno vergognoso che non solo un uomo normale, no, come il signore che è intervenuto prima, ma anche giornalisti come Emilio Fede, nel momento in cui finalmente un ragazzo o un uomo faccia qualcosa di diverso, che vada a denunciare una situazione del genere, scatti subito l'invidia. Cioè l'italiano medio normalmente si lamenta in continuazione e non fa niente. Nel momento in cui c'è una persona normale che fa qualcosa, allora scatta immediatamente l'invidia e si dice, ah, vabbè, ma tanto lo sapeva, tanto si deve subire le conseguenze perché sì, si riferisce a quanto ha detto sì Emilio Fede qualche giorno fa, ci furono polemiche, disse anch'io la scorta. Comunque grazie Elisa per il suo intervento. Vorrei andare da Arcangelo Badolatti, che lavora in Calabria, Cosenza, terra dove purtroppo opera anche la 'Ndrangheta. Arcangelo Badolatti, è difficile scrivere e ci racconti anche come si manifestano a volte alcuni purtroppo poteri forti in Calabria nei confronti di un giornalista come te, per esempio. La 'Ndrangheta credo sia padrona di intere fette del territorio calabrese, è stata per lungo tempo colpevolmente sottovalutata dallo Stato, c'erano boss che avevano in tasca i numeri dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio, boss che oggi si sono pentiti, è un'organizzazione che è padrona del territorio perché ha ottenuto una contaminazione sociale che in altre parti d'Italia probabilmente del meridione non è avvenuta, cioè oggi i mafiosi di terza generazione, i figli dei boss degli anni 50 e 60 sono avvocati, architetti, dottori, quindi inquinano diciamo complessivamente il tessuto sociale. La 'Ndrangheta è forte poi perché mantiene la sua cultura, i 'ndranghetisti rimangono tali, si comportano, parlano in dialetto, mangiano così come fanno nei loro piccoli paesi, non so, Platì, San Luca, Gioia Tauro. Ma come si manifestano? Voglio dire, se tu stai per scrivere un articolo e magari ti squilla il telefono e dall'altro capo del telefono, lo racconto perché so che è successo, si manifesta chi? Ce lo vuoi spiegare e che cosa succede? Guarda, diciamo il livello delle minacce è differente a seconda di quello che scrivi. Intanto, ripeto, i figli di questi sono diventati dei professionisti, quindi la prima mossa che fanno è ti arriva insomma una telefonata che è a metà tra un invito, ma chi lavora in Sicilia lo sa bene perché è la stessa cosa, a metà tra un invito a desistere e un fare attenzione, tra virgolette. Poi ti arrivano i primi avvertimenti, cioè le lettere con i proiettili di Kalashnikov, di calibro 9, eccetera, se continui ti bruciano la macchina, forse non ti uccidono perché la 'Ndrangheta calabrese non ha mai alzato il tiro, d'altronde gli omicidi eccellenti in questa regione sono stati 4 negli ultimi 30 anni, per cui ha una strategia diversa e poi adoperano tutti gli strumenti anche legali, devo dire, questo è un fatto gravissimo, cioè ti arrivano risarcimenti civili, denunce per come dire reati che non hai commesso, per diffamazioni inesistenti, quindi ci sono diversi livelli del tipo di minaccia, una minaccia appunto diretta, poi quella indiretta, insomma tendono a discoraggiarti in ogni modo, anche perché la 'Ndrangheta è così arcaica che è disabituata a sentire parlare di sé, cioè per lungo tempo ha adottato la famosa strategia dell'immersione che poi scelse per esempio in Sicilia Bernardo Provenzano, la filosofia della 'Ndrangheta è di immersione, quindi i giornalisti che rompono, che scrivono, che raccontano, che parlano di loro, insomma danno parecchio fastidio, non sono mai stati abituati a questo. Ma fa paura quando dall'altra parte del telefono ti chiama una persona che tu sai essere vicina a quell'ambiente? Ma guarda, fa paura perché, ti ripeto, fa paura sia per il tipo di violenza che la persona, insomma il clan può esercitare, fa paura pure perché intorno al clan si muove tutto un mondo di imprenditori, di professionisti corrotti che comunque poi determinano tutti insieme una sorta di pressione, certo, ambientale che ti fa davvero star male, cioè questi te li rincontri poi in tribunale, li incontri nelle ASL, quindi vieni guardato e non trovi solidarietà, insomma vieni guardato come una persona che rompe degli equilibri in quella famosa zona grigia, insomma operano quella zona grigia di commistione anche con posti di dirigenza di cui abbiamo tra l'altro parlato in una trasmissione recente, ricordate c'era anche un libro del nostro collega Nino Amadore del Sole 24 Ore su questo. Io vorrei, se ce la faccio, un altro ascoltatore, Raffaele da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io innanzitutto, lei poco fa parlava di paura, io sono un insegnante precario, la paura la vivo a Napoli e la si prova non solo se si riceve una telefonata come nel caso di Arcangelo, basati, ma nel momento in cui nella cultura generalizzata, lo vivo con i miei alunni, ad esempio sul telefonino hanno tutti una musichetta famosissima di un film, Il Camorrista, interpretato da Ben Gazzara, oppure dove propongo più volte il libro di Saviano in classe e alcuni miei colleghi invece parlandone nelle stanze, tra virgolette, dei bottoni, non tutti per fortuna, raccontano di questo Saviano che ha calcato la strada facile del successo, magari ha esagerato un po', mentre vediamo sotto i nostri occhi che quotidianamente la camorra purtroppo esiste ed opera. Guardi, lei tra l'altro mi dà il pretesto per leggere un altro passo dell'intervista che oggi, il dialogo che Saviano ha fatto su Repubblica, siccome ha parlato di soldi, Saviano ha proprio detto così: non mi riconoscono nemmeno l'onore delle armi che solitamente offrono ai poliziotti che li arrestano, ai giudici che li condannano. Non dicono Saviano è un ricchione, no, dicono si è arricchito. Quell'infame ci ha messo sulla bocca di tutti, nel fuoco del governo e addirittura dell'esercito, ci ha messo davanti a queste fottute telecamere per soldi. Vuole soltanto diventare ricco, ecco perché quell'infame ha scritto il libro. E questo mi mette contro i miei amici che mi dicono bella vita la tua, hai fatto i soldi e noi invece tiriamo avanti con 500 euro al mese e poi dovremmo difenderti da chi ti odia, da chi ti vuole morto. E perché? Daccene la ragione. Prima ero ferito da questa follia, ora non più. Io mi fermo qui ringraziando Lorenzo Diana, ringraziando Lirio Abbate, Raffaello Maggio e Arcangelo Badolati per essere stati con noi. Potete riascoltare la puntata su radio24.it o scriverci alla mail vivavoce@radio24.it e ci risentiamo domattina.